E bentornati a tutti, undicesima puntata di All Time Rock and Roll. Siamo tornati tutti. Esattamente, siamo tutti questa volta. E settimana scorsa abbiamo parlato del carnevale di Fognano, vero Luke? Tu ci ricordi? Sì, esattamente. Se vi siete persi la puntata, comunque potete riascoltarla sul podcast. Ecco, vedi, senti, mi mancava qualcosa già, sottofondo. Ah, già, sì. vero. Non era parte. C'era qualcosa. E andiamo avanti subito con il primo dei due compleanni di oggi, vero? Sì, il primo compleanno di oggi è di Francis Buchholz, nato ad Hannover il 19 febbraio del 54. È un bassista tedesco, noto per essere stato membro degli Scorpions. Francis esordì come bassista all'età di 15 anni. Infatti, ad Hannover gli anni si misurano in gianni. In una band scolastica, dove ebbe la possibilità di suonare vari generi come il rock, il blues e il jazz. Terminati gli studi, Francis fondò un gruppo, i Down Road, per poi entrare nei neofondati Scorpions nel 1973, con cui guadagnò prestigio negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Brasile, in Messico ed infine in Europa. Olè. Noi facciamo i nostri migliori auguri con Scorpions, Still Love You. Auguri! How does it feel, babe, to play sweet revenge? Do you want me on my knees? How does it feel, babe, to let me feel your strength? Don't be cruel, can't you see? This one. gli Scorpions con Still Loving You. In coro l'abbiamo detto, ragazzi. Hai preso la frittella, no? No. Sai che io sono allergico ai dolci. Ma io l'ho portata apposta, solo per te. Ma ti ringrazio, però sai che non li mangio. Continuiamo con... Voi invece vi siete abbuffati. Abbuffati? Io non ho mangiato... finite. Ne ho mangiate due, io. Scusa. Lei, Patrusi, quanti ne ha mangiati? Mezza. Una? Il mazzaio è in debito ancora. Anzi, in credito, non in debito. Credito. Il bindi? Tutte 12. Quelle altre le ha mangiate il bindi. Uno e mezzo. Continuiamo con il secondo compleanno. Daniel Patrick Adair, nato a Vancouver il 19 febbraio 75. È un batterista compositore canadese noto per la sua militanza. Dopodiché mi sono accorto di leggere cose senza senso che aveva scritto il padre nella scaletta. Nei Three Doors Down e nei Nickelback. Three Doors Down. Te la farò scontare amaramente. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I Ed erano i Nickelback con Rockstar. Per la gioia del Luke. Yes. Ah, vabbè, non li adoro particolarmente, però comunque sono un buon gruppo. Sì, sì, sì. No, ma è il tipo di musica che non mi piace, un po' melenza, ma è un gusto mio, non dico che non sono bravi. Un po' commerciale. Sì, pensare, esatto. Se vedi lui è invece capello lungo. Io mi ricordo che Piero Pelù li infamò da capo a piedi. Sì. Sì, sì, ti giuro. Lessi un'intervista dove li infamava veramente in una maniera astronomica. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ognuno ha la sua opinione. Ah, vabbè, certo. E apriamo la rubrica, come ogni puntata, della storia del rock. Però prima di aprire la rubrica, io vorrei parlare anche di questa domenica del carnevale. Che è successo? E vorrei parlare della scoriandolata. Ah, sei rimasto vivo? La senti che è bella. Cioè, sei rimasto paurosa. Vivo. Allora, io ho 3 giorni che ogni volta che mi frugo in tasca, trovo un coriandolo. O prendo il borsello, mi escono i coriandoli da. Nanno, cambia uguale. Pantaloni. No, l'ho cambiato i pantaloni. Cioè, coriandoli io stesso. Sì. Tiene nell'armadio coriandolo. E li tirano. Ah no, aspetta, lo so io perché ce l'hai lo stesso, nonostante tu abbia cambiato pantaloni. Perché un paio non è tua, un paio non di Giulio. Giusto? Bravo, bravo. Giulio che è suo fratello, chiaramente. Ci sta. No, comunque la scoriandolata è bellissima. Sì, fantastica. Davvero, complimenti. Che meglio di quella dell'anno scorso. Sì. Meraviglioso. No, a me mi è piaciuto tantissimo quando hanno tirato i palloni, quelli enormi. Sì, la folla. Sì, sì. Che poi sono spariti. Dove sono andati quei palloni? Li hanno inglobati. No, davvero complimenti, bellissimo. Dici che lo rifanno, è vero? Sì, domenica ripetono la scoriandolata. Sì, perché è stato un successo veramente grandissimo, di conseguenza. Quindi un'altra settimana di coriandoli nascosti tra le tasche e il portafoglio. Ovviamente. Comunque, andiamo avanti appunto con la storia del rock. Il 1900. Ah, una cosa. Ah, un'altra. Sì, io ho inserito delle parole a caso nelle tue parti, Luke, e nelle parti di Valerio. Bellissimo. Chiaramente non le dovete leggere. Cioè, te le hai già lette. Luke, te non leggi. Ebbene, no, sì. No, io lo sai che. E una di queste. Non mi freghi. E attenzione, chi all'ascolto, una di queste probabilmente mi darà un aperitivo. Attenzione. Perché la... Dopo vediamo. Vabbè, dai, io ho portato le frittelle stasera. Ti devo pagare l'aperitivo. No. Andiamo avanti. E andiamo a parlare di Magic Bus degli Who. Chi? Scritta da Pete Townshend. Ormai sono diventato un grande, esperto. Grande, tuo migliore amico. All'epoca di My Generation, dunque nel 1965, ma tenuta inspiegabilmente nel cassetto fino al 1968. Cassetto c'è scritto. Leggendaria la copertina, psichedelica all'ennesima potenza, con gli Who che saltellano attorno al loro Magic Bus. La canzone è una semplice canzone d'amore, dove semplice non è aggettivo che sminuisce, anzi è difficilissimo scrivere in semplicità. Vedi il caro di bombolo. Dai, che cattivo. Più una cosa è semplice, più è difficile. Forza Azzurri. Il sottofondo. E anche se è difficilissimo appunto scrivere in semplicità, infatti il protagonista è stufo di voler fare ogni giorno la fila per prendere l'autobus. Ma comunque te li sei fatti anche per te gli errori. Sì, infatti. Ovvio, dopo tanto io me ne scordo le cose, quindi è la fila per prendere l'autobus che lo porta dalla sua innamorata. E allora che cosa pensa di fare? A che cosa gli viene in mente? Avanti, vediamo. Una pera. No, non va a comprare nessun frutto. Un caco. Niente, semplicemente Masa, mi dispiace. Il mago del business chiede all'autista di vendergli l'autobus, così da poter andare con maggior tranquillità dalla sua cara e la sua cara ragazza amata. L'autista all'inizio dice di no. Evidentemente uno furbo c'è in questa cosa. Poi evidentemente cambia idea. Ale, chissà come mai. Perché nelle ultime strofe il protagonista dice che è lui a portare a casa la sua bella amata ogni giorno per una strada differente. Però bella storia. Tutte dai. Le strade portano a Roma, ricordiamolo ai nostri amici ascoltatori. Magic Bus, Who? To have no fear. spend 6 months every day just to drive to my baby. From 10, 6 months each day, 'cause I drive my baby every day. Ed erano gli Who con il loro Magic Bus. E adesso continuiamo la storia del 68 con Eleanor. Eleanor. Oh, Eleanor, uguale, via. E François. Nurant. È una canzone. Capro-testone. Del 68, scritta dal gruppo Capro. Pop rock americano The Turtles. Le cime del rap. Senza ninja, solo The Turtles. Originalmente inclusa nell'album Battle of Bands, la sua scrittura è stata accreditata ai 5 membri della band, ovvero Howard Kylan, Mark Wallman, Al Nicon, Jim Pons e John Barbata. La canzone venne originariamente scritta per scherzo, in riferimento ad uno dei loro precedenti successi, ovvero Happy Together. Era stata pensata come una lettera di disappunto verso la loro casa discografica, la White Whale Records, colpevole. White Whale e Balena Bianca. Sì. Secondo loro, di stare costantemente con il fiato sul collo alla band, chiedendo insistentemente un altro brano da Hit Parade, come l'era stato per l'appunto Happy Together. La canzone è stata prodotta da Chip Douglas e pubblicata come singolo. Eleanor ha raggiunto posizione numero 6 della Billboard Hot 100. Oltre al brano nella sua forma originale, celebre fu la versione italiana intitolata Scende la pioggia, interpretata da Gianni Morandi. I Turtles con Eleanor. Sì, ma te. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you. Just Insomma, dicevi Patru? Di fondo pantalone gli arriva giusto. Dopo glielo fai. Sveglia. Sveglia, chi tocca? Oh. No, dicevamo. Ah. Le Lenoir dei Turtles. Sì, infatti. E continuiamo con Presso il Drop, che è una canzone dei Tutten the Mitals. Non so, Masa, se ti ricordi chi sono questi elementi. Io sì, benissimo. Sono andato di inizio. No, ma no, è prima. Sveglia. I Toots and the Mitals sono quei meravigliosi personaggi di quella, foto, di quella foto che volevamo ingrandire. Belli. Il poster. Se vi capita, andate a cercare su internet perché sono veramente favolosi. Poi non sbagliate, la prima foto è quella. Che e mi sembra che ci sia solo quella di loro. Sì, sì, sguardo in foto. Comunque, questa canzone è stata registrata nel 69, ma pubblicata nel 70. E prodotta da Leslie Kong, da non confondere con un suo cugino King. Appare per la prima volta su uno, appunto, per l'appunto, sui loro album Monkey Man, pubblicato in Giamaica. Album creato apposta per il suo cugino, in onore di suo cugino. Dalla Beverly Records. From the Roots, pubblicato nel Regno Unito dalla Trojan Records. Pressure Drop contribuì a lanciare il gruppo nei paesi esteri al di fuori della Giamaica, più precisamente quando la canzone fu inclusa nella colonna sonora di un film intitolato The Harder They Come, che rese popolare il reggae in gran parte del mondo. Nel 2004 la rivista Rolling Stone posizionò il Forza Juve Patrussi ti odio al tempo. L'avevo letto. E l'hai detto lo stesso. Sì, l'ho detto lo stesso. Con il cuore, però. Perché è il bello, è il bello, è il bello della diretta. Posizionato alla posizione numero 446. Lo sai perché l'ho detto? Perché Forza Juve è alla posizione numero 446. Ah, ecco. Ecco perché. Non volendo. Nella sua lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, sentila, il pezzo apparve nelle colonne sonore di 50 volte il primo bacio, grandissimo film di Adam Sandler, bravissimo, non mi veniva, e This is England, e venne incluso nella stazione radio del videogioco Grand Theft Auto San Andreas. Oh yeah. pesa, oye pesa, cuando ya parió, hace la pesa ya, oh pesa, oye pesa, cuando ya parió, yo, yo, yo, oye, yeah, pesa. Ed era Pressure Drop dei Toots and the Mitals. Un bel trio, eh? Bella canzone. Bel trio. La prima esportazione del reggae nel mondo. Vero? E dimmi. No, no, ah, okay, ascoltavo. Ah, okay. Andiamo avanti con Revolution. Una canzone dei Beatles scritta da John Lennon. Che strano. Che strano. A proposito, aspetta, dimmi. A proposito di Beatles, non so se avete visto il carro a Viareggio con John Lennon. No. No, io ho visto quello con Freddie Mercury. Con Freddie Mercury. Quello è di un altro pianeta. Quello è bello. Non l'ho visto. Bello, veloce. Si sono andati a rock a Viareggio quest'anno. Hanno ascoltato old time rock and roll e hanno detto ma. Ma perché no? Esatto. Ma forse non l'ha detto con quella cadenza, Patro. Come no? Olla ni. No, forse no. Masa, come avrebbero detto altrimenti? Viareggio? Non lo so. No, ma per favore. A Viareggio poi sono famosi per. Non sono di Viareggio. Masa, a Viareggio sono famosi per il Purp. Purp. Famosissimo Purp Viareggio. Viareggino. Viareggino. Presente nel cacciucco. Chiamano Viareggini. Quanti cantieri ci sono a Viareggio? Io non ricordo, mi sembra 72. 12? 12, certo. Sì, sono 6 di prima e 6 di seconda. Se non erro, non mi ricordo adesso. Quello di 6 di prima e 6 di seconda. C'è le categorie. Prima categoria e 6 di seconda. Ah, certo, poi c'è la eccellenza. Sì, è come un po' il campionato, Serie A, Serie B. Ho capito. A proposito, stasera gioca Atletico Madrid Foggia. Sì. Comunque, se lo volesse ricordare. No, chi gioca Atletico Madrid? Foggia, Foggia. Dai! È la mezza squadra lì. È la mezza squadra. Grandissima. Grandissima, grandissima. Vabbè. Dai, andiamo avanti. Revolution, una canzone appunto scritta dai Beatles e scritta da John Lennon, anche se attribuita alla coppia Lennon e McCartney, come molte delle canzoni dei Beatles, quasi tutte. Cosa, sì. E la felicità di Ringo Starr e, sì, infatti, e George Harrison. Esatto. La canzone è apparsa in due differenti versioni, una elettrica di genere hard, uscita come lato B nel dell'hit Hey Jude. Giustamente hard lato B, mi pare giusto la cosa. Beh, giustamente. Che dici? Doppi sensi. No, in realtà hard l'ho messo in, no, scherzo. E l'altra invece una lenta ballata acustica denominata Revolution One, pubblicata nell'album The Beatles White Album. Nello stesso album è stata incisa un'altra canzone dal titolo Revolution 9, di genere sperimentale e di avanguardia. Il testo del brano fu ispirato dai fermenti giovanili che si verificarono proprio nell'anno di pubblicazione di quest'album, quindi nel 1968. I moti del 68. Yes! You say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. Tell me that it's evolution. Well, you know we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be got a real solution. Well, you know we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all doing what we can. But But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Ed erano i Beatles con la loro bellissima Revolution, versione hard, come piace al patro. Anche normale va bene, non è che... Cioè, voglio dare al... E continuiamo con Touch Me, il titolo... per continuare proprio, Come piace al Bindi. Proprio, eh? Hard, lato B, Touch Me. Touch Me. È il titolo di una canzone del gruppo rock americano The Doors. Il singolo venne estratto dall'album The Soft Parade, pubblicato nel dicembre del 68. La canzone venne proposta per la prima volta al pubblico dal vivo durante una trasmissione della CBS Smother Brothers Company Hour nel dicembre del 1968, dove i Doors, durante l'esibizione, vennero accompagnati da un'orchestra e da una sezione di strumenti a fiato. La canzone venne scritta da Jim Morrison nel 65, ancora prima di divenire un'icona o un'icona del rock. Un'icona. Un'icona. Se era sul computer era un'icona. O un avaro, come un direbbe avaro. Davide. E ancora prima di immaginare che un giorno Ray Manzarek, che purtroppo ricordiamo scomparso poco meno di un anno fa, gli propose di far parte della band The Doors, per l'appunto. Jim scriveva poesie e sonetti e li raccoglieva in un'agenda, oppure li spargeva ovunque, nella sua casa universitaria di Los Angeles, a Venice Beach. No, hai saltato una parola. Sì. Quale parola? Ripappero. No, quella l'ho cancellata, mio caro. Ripappero. Il punto è che in ognuno di noi c'è un Jim Morrison. Se qualcuno di voi scrive sonetti, poesie, appunti, deve coltivare questa dote o questa passione e portarla avanti. Chissà che un giorno non incontrate il vostro Ray Manzarek. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. Dai, che lui, simpatico, e lui, che e lui butta dentro, no? Così, così, così. Sopra ma siamo la canzone. In diretta? Siamo in diretta. No, dunque, ma era l'ultima frittella. Sì, ma che scherzone. Vabbè, il nostro tecnico. Dai, portate te, è giusto che l'ultima la mangi tu. Comunque, vabbè, diciamo che erano i Dor. Lui la mangia. Che diciamo che erano i Dor con la loro Touch Me. Sì. E adesso versione, sta versione hard lato B, Touch Me, ricordiamo. Anche quella versione hard. No, in realtà adesso no, tocca normale, i Deep Purple. Touch Me normale. Deep Purple. Deep Purple. Ash. Che non è. Non è quello. Ash. È un brano musicale scritto dal compositore Mirko Mazzeo. E dal suo compare Joe South. Per il cantante c'è anche Billy. Sì, vabbè, fate come vi pare. No, ciao. Ciao. Dai, su. C'è anche Billy. Anche Billy. Che c'è tra Billy? Billy Joe. Billy Joe. Che non è il cantante dei Cosi, eh? Dei Billy Joe's Band. Dei no. Cosi. Ricordiamo che i Cosi sono. Aspetta, che dei Green Day, ecco. I Cosi. Per gli amici, i Cosi. Comunque, Joe South ha scritto questa canzone per il cantante Billy Joe Royal, pubblicato come singolo nel 67 per la Columbia Records. Il singolo raggiunse il 52esimo posto nella classifica di Billboard, ma la versione più famosa è stata reinterpretata l'anno successivo in chiave hard rock. Torna l'hard. Dai Deep Purple. Purple. Che l'hanno pubblicato come primo singolo della loro carriera discografica. Hai scritto carriera due volte, l'ho letto solo una. No, ma in realtà non l'ho ritoccata. Ah, era così di suo? Sì, sì. Che bello. Bene. Dunque, un inizio col botto, cioè, perché vent'anni dopo, nell'88, Deep Purple lo hanno pubblicato in una nuova versione. Asch. I can't sleep. Na, na, na, na, na, na. Sì, Deep Purple. I Deep Purple con vai Masa, vai. Ash. E andiamo avanti con l'ultima canzone, non di questa puntata, ma della storia del 1968. E parliamo di Sister Ray dei Velvet Underground. Sto cercando la mia vena principale, ma non riesco a prenderla obliquamente. Non l'ho detto io. È una frase estratta dal testo del brano Sister Ray. Pensavo eri andato a far prelievo del sangue. No. Composta dal gruppo rock Velvet Underground nel 1968 ed appare nell'album White Light album e White allegria. La canzone si distingue per la lunga durata, cioè ben 17 minuti, e per il mixaggio confuso ma potente. Gli strumenti sono quasi fusi in un'unica massa rovente di suoni e stridii. La canzone si regge. Senti oggi, massa rovente, altro lato B, touch me. Senti oggi che siamo qui. La canzone si regge su tre accordi di base per tutta la durata, cioè quindi sempre 17 minuti, incredibile. Come tutti gli album sulla di quale Liga. Sì, esatto. Okay. No, vabbè, no. Non sì, sono quattro, però dai, insomma, no. Di chi? Ligabue. No, vabbè. Lo conosco. Ah, ho visto un video l'altro giorno di un ragazzo. Ma non ci interessa, manda la canzone. Ma... che faceva in questo video tipo una trentina di canzoni di Ligabue. Mm-hmm. Tutto con lo stesso accordo. No. Sono sempre delle gran belle canzoni, secondo me. Cioè, sì, mi ha detto questo. Non stai a guardare se una ha 20 accordi è più bella dell'altra che ne ha due. Cioè, non puoi dire questo. Vabbè, dunque. Ma no, dai. Quindi? Dunque? Basta. Su tre accordi. Vabbè. Per tutta la durata della canzone, sulla quale vengono effettuate improvvisazioni, rallentamenti ed accelerazioni di Ligabue. I Velvet, la colpa è la nostra che lo facciamo parlare. Sì, no, basta. Vai. Searching for my mainline. I said I couldn't hit it sideways. I just like Sister Ray said, living on. Rosie and the three on. They're busy waiting for her blue star. Who just got back from Carolina. She said she didn't like the weather. They're busy waiting for her sailor. Who's living just a bigger liver. He says here from Alabama. He wants no way to earn a dollar. Searching for my mana. I said I couldn't hit it sideways. Oh, just like Sister Ray said, play it on. We'll be right back. Questi erano i Velvet con la loro Sister Ray, però 17 minuti erano troppi. Velvet Underground. Velvet Underground. Te prima importante. Hai detto Doors senza il D. No, che... l'ho detto. No, no, la seconda volta. Un tool l'hai detto. Questa era la versione breve di questa canzone. Sì, molto breve. Breve, molto breve. Mixed by molto Mirko breve. Mazzeo. E adesso andiamo avanti con le eccitazioni. Eccitazioni. Vabbè, eccitazioni. Le frasi più belle, più importanti. Capite? Dai più grandi personaggi della storia del rock. Del rock. Ah, come lo dici te, Patro, guarda. La prima di oggi. La prima di oggi è di Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries. Dolores, Dolores. Muy Dolores. Anche perché la frase è molto eloquente, Dolores per forza. La gravidanza è molto dolorosa, infatti, ma la nascita è un'esperienza molto eccitante. Salvation. Bravo a lei e alle sue vacche. E al latte delle vostre vacche. Chi non lo sa, è una frase tratta dal film Glorious Bastards. No, non è tratta, è reinterpretata da noi. Che è ben diverso. Arancia Meccanica, cioè. Bello. Uno dei grandi film, sì. Bellissimo. Questa arancia del... sì, narra di questa arancia che un giorno smette di basta, dice vado via, non faccio più l'impiegato e inizia a fare appunto il meccanico. Quindi da qui viene fuori l'arancia meccanica. Poi invece l'altra sera hanno fatto vedere il sequel che è Pupone Elettronico. Più o meno che lui storia. Smette di fare il meccanico e decide di buttarsi nel mondo dell'elettronica. Della pornografia. No, di diventa... no, no. Quello è Pappone, non è Pupone. Polpone. Io sto morendo. Sì, infatti. Per la felicità di molti. Comunque, allora, la prima volta che mi sono sentito un cantante è stata quando, con un microfono in mano e una chitarra davanti, ho strimpellato l'intero repertorio di Lucio Battisti. Lui è la musica leggera in Italia. Vasco Rossi. Va. Ed era il mitico Vasco in chiusura alle 20.01. E beh sì, purtroppo anche oggi in chiusura. Questo era l'ultimo disco, l'ultima canzone. Questa è la nota dolente. Beh, c'è anche una nota positiva, ovvero che il Nannotti è andato via. Vero le bindi. Dite infatti che si respira meglio. Sì. No, stiamo scherzando, Vale. Lo scherziamo. Dai, vi salutiamo. Noi ci sentiamo. Volevo fare un saluto a una nostra fans. Ne abbiamo tantissime, ma in particolare è la fans, ovvero Eddie Foianesi. Grandissima. Che ascolta assiduamente Radio F, non solo il nostro programma, ma anche gli altri due. È vero. Bellissima donna. La salutiamo, un bacione. Ciao Eddie. Noi ragazzi ci risentiamo se volete, chiaramente, ma dovete, mercoledì prossimo come sempre dai 19 alle 20. Ricordiamo la nostra pagina Facebook, All Time Rock and Roll Radio F, dove potete trovare anche il podcast di questa puntata. Ci risentiamo mercoledì prossimo, ciao a tutti! Ciao!